Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 1 ottobre, il sole in regione è sorto alle 7.05, tramonterà alle 18.48, la luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella e Armando Mucchino. I titoli. Primi bilanci ragionati della vendemmia 2023, una vendemmia certo da non ricordare. Frequentare le scuole di campagna aveva particolarità strettamente legate all'ambiente sociale e anche ai ritmi e caratteristiche del vivere nel mondo agrario. È di gran moda anche in regione la birra agricola, strettamente legata alle produzioni locali, il caso del Luppolo. Anche l'annata di produzione di un vino è strategica per valutare la scelta di una bottiglia, la versione dei sommelier. La ricetta di una confettura di zucca che ci dà l'occasione per far chiarezza sui termini di marmellata e confettura. La regione ha un suo fiore tipico con tanto di disciplinare di produzione, il ciclamino friulano. In conclusione, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Non tutte le ciambelle riescono con il buco, una di queste è la vendemmia del 2023 in Friuli Venezia Giulia, condizionata da una serie di fattori negativi. Ne parliamo oggi con Rodolfo Rizzi, direttore di una nota cantina cooperativa della Bassa Friulana e già presidente di Assoenologi del Friuli Venezia Giulia. Partiamo dalla produzione, eccezionalmente ridotta, i primi dati non sono stati mantenuti. Quest'anno è stata una vendemmia eccezionalmente ridotta, sia come quantitativi che come tempi, perché si è chiusa molto velocemente. Ed è stata una vendemmia che è partita anche i primi di settembre, quindi anche qui una eccezionale data, perché ricordiamo che solitamente partivamo verso Ferragosto. E i dati che abbiamo ricevuto sulla produzione hanno significato un forte calo produttivo, dai 20 al 25% sicuramente in meno in tutta la regione. Questa è la media, ci sono anche delle zone che si sono salvate e qualcuno che non ha fatto niente. Abbiamo avuto delle zone che si sono salvate da questa bassa produzione, soprattutto nelle zone collinari o nella bassa Isonzo, però nella media dobbiamo registrare veramente un forte calo, che è stato anche un forte calo a livello nazionale. Oggi l'Italia non è più il primo produttore mondiale di vino, ma si colloca al secondo posto. E questo però non è da considerare un male. Assolutamente no, perché con la giacenza della Cantina Italia che ha registrato un più 10% rispetto allo scorso anno, avevamo delle scorte notevoli e quindi una riduzione, sebbene anche dovuta ad altre avversità, è stata ben accolta da tutto il mondo vitivinicolo. Malattie fungine, grandine, caldo africano tra i principali fattori di questo calo. Il calo è stato determinato da questo andamento climatico che è stato veramente sfavorevole. Se pensiamo che lo scorso anno soffrivamo dall'eccessiva calura, da un'eccessiva carenza idrica. Nella stagione del 2023 abbiamo avuto invece un'eccessiva precipitazione con classiche bombe d'acqua, con delle grandinate che hanno colpito vastissime zone, ricordiamo una su tutte, la grandinata del 24 luglio, che ha devastato completamente parte delle zone vitate. Tutta questa grande umidità ha creato anche dei problemi relativi alle malattie fungine, che hanno ridotto di fatto la produzione viticola. Non ultimo, il caldo che abbiamo avuto ad agosto, quindi questo caldo africano che ha toccato anche in certe zone i 40 gradi, ha fatto sì che da una parte è stato un bene perché ha cicatrizzato le ferite dovute alla grandine, dall'altra parte ha però fatto evaporare l'acqua dell'acino e quindi ha ridotto ulteriormente la produzione. Burocrazia. Ma la burocrazia quest'anno è entrata veramente in pieno anche in questa vendemmia, perché con questo andamento climatico i maggiori consorzi hanno richiesto alla regione da prima una riduzione del grado zuccherino alla vendemmia e poi anche una zonazione delle zone colpite da grandine. Quindi abbiamo dovuto ridisegnare i sistemi informatici e adattarli a questa riduzione. Quindi dai vari disciplinari di produzione abbiamo dovuto ridurre minimo il 15% di produzione. Gran lavoro per gli enologi, quindi quest'anno il vino si fa in cantina. Ma quest'anno possiamo proprio dire che il vino si contribuisce notevolmente a farlo in cantina, e noi, grazie alla presenza di un'alta tecnologia che abbiamo nelle cantine, che da anni stanno investendo, e soprattutto anche grazie anche alle scuole enologiche che abbiamo in regione, ricordiamo Cividale del Friuli e la facoltà di enologia dell'Università di Udine, abbiamo anche sopperito i vari problemi legati al maltempo che abbiamo avuto. Anche nelle campagne erano un presidio sociale, ma dalla campagna avevano assunto anche vizi e virtù. Angelo Floramo ci parla delle scuole del Novecento nel Contado. La prima campanella di scuola un tempo risuonava solenne nel giorno di San Remigio, il primo giorno di ottobre, e le bambine e i bambini che per la prima volta attraversavano il severo portone venivano detti proprio per questo remigini e remigine. Nel tempo in cui la demografia non era ancora un problema, il seme di Adamo abbondava. In ogni paese, anche nel più piccolo borgo rurale, sperduto tra i campi o aggrappato alla gobba di qualche montagna, la scuola, assieme alla chiesa e all'osteria, a ciascuno il suo pubblico, differenziato per credo, età, genere e visione del mondo, rappresentava uno dei luoghi più importanti per la formazione degli umani. Era in effetti un universo in miniatura, riservato ai più piccoli, capace di rispecchiare perfettamente il mondo dei grandi, talvolta in tutta la sua feroce e brutale divisione tra le classi sociali, che in aula, proprio come in paese, mantenevano i loro privilegi o piuttosto si abituavano a inghiottire le ingiustizie che un giorno avrebbero certamente subito. I pargoli del dottore, del notaio, del farmacista o dell'avvocato, ammesso che le loro famiglie risiedessero in campagna e non le avessero invece preferito la città, godevano di un favore speciale, capace di mitigare la severità degli educatori. Spesso tanto devoti al rispetto delle gerarchie da non alzare mai la lunga e temuta bacchetta sulle manine rosa e ben tornite dei privilegiati. Le figlie e i figli dei contadini invece non ispiravano altrettanto scrupoli. Assolvevano tutti i ruoli subalterni, proprio come le loro madri e i loro padri appena fuori dal cortile. Addetti al secchio del carbone, vegliavano il fuoco della stufa, perché non si spegnesse nelle giornate più fredde, quando l'inverno ancora aveva un'anima di ghiaccio. I piedi, poco riparati dagli zoccoletti di legno, venivano presto tormentati, come del resto le mani, dai dolorosi geloni. I mocciosi, come indica il termine, avevano spesso il moccio al naso, capita quando si ha freddo e nulla per proteggersi, e se lo asciugavano con la manica nel grembiule, lasciandovi sopra inequivocabili scie argentate. Le bambine portavano sulla cattedra quello che le madri, premurose, pensavano potesse fare piacere al maestro: una mela, un uovo, i fiori del campo raccolti strada facendo. I ragazzini talvolta venivano presi dalla voglia sacrosanta di rivendicare l'ingiustizia sociale. La rivoluzione proletaria può anche avere l'aspetto di un rospo o una biscia chiusi dentro il cassetto della signora maestra. La battuta è facile, il comparto sta andando a tutta birra, e ovviamente parliamo di birra, ma cosa c'è dietro questo mondo, questo settore che ha i piedi nell'agricoltura? Ce ne parla il professor Raffaele Testolini. Verrebbe da dire che i birrifici crescono come funghi in regione. Del resto, la produzione di birra industriale e artigianale in Friuli Venezia Giulia ha una lunga tradizione, a partire dal 1859, quando Luigi Moretti fonda la fabbrica di birra e ghiaccio. Ma c'è una ragione ben precisa per cui i birrifici sono aumentati negli ultimi anni, ed è il decreto ministeriale 212 del 2010 che ha reso facile la produzione di quella che viene definita la birra agricola. Vediamo cos'è. È la birra prodotta da un'azienda agricola che utilizza almeno il 51% degli ingredienti prodotti in azienda. La birra è fatta sostanzialmente con orzo, acqua e luppolo. Esclusa l'acqua, che la legge ovviamente non considera, l'uso di orzo o altri cereali prodotti in azienda permette di produrre la birra agricola, di pagare le tasse sul reddito agrario, che sono basse, e una tassa sulle bevande alcoliche molto agevolata. In regione mancano le strutture per mantare l'orzo, ma qualche iniziativa è nata. Invece il luppolo viene acquistato, salvo rare eccezioni. Eppure il luppolo è spontaneo da noi. Addirittura un infestante, e chi raccoglie gli urticions a volte non sa che sta raccogliendo i germogli del luppolo da birra. Ma allora perché non produciamo anche il luppolo oltre all'orzo? Per la semplice ragione che rende poco e non conviene coltivarlo. L'ERSA, anche in collaborazione con l'Università di Udine e qualche azienda sul territorio, ha provato la coltivazione, ma i risultati sono stati deludenti e solo qualche varietà, come l'americana Cascade, ha dato qualche risultato, anche se sempre sotto le aspettative. Si potrebbe anche tentare la valutazione di qualche selezione autoctona, ma il lavoro è lungo e tutto si scontra con la scarsa convenienza economica. In Italia ci sono un centinaio di ettari a luppolo, soprattutto al centro-sud. Qualche coraggioso ha avviato la coltivazione anche da noi. Magari non è conveniente dal punto di vista commerciale, ma poter vantare una birra fatta solo con prodotto aziendale può essere una buona pubblicità, se la birra è buona, ovviamente. La scorsa puntata con Vladimiro Tulisso, che ci segue la rubrica di Sommelier, avevamo parlato della carta dei vini e degli abbinamenti. Entriamo più nello specifico. L'annata del vino conta nell'abbinamento, nella scelta? Direi di sì. Questo perché tra le informazioni che la carta ci mette a disposizione troviamo l'annata, ovvero la data in cui è stata effettuata la vendemmia. Se il nostro ristorante avrà un sommelier, potremo farci perfino raccontare le caratteristiche dell'annata, ma se dovremo scegliere da soli, l'anagrafe del vino sarà un'utile alleata. Tutti i vini trascorrono mesi o anni prima di finire in bottiglia e successivamente arrivare sul nostro tavolo. Questo periodo di tempo ha molta influenza sulle caratteristiche del vino. Per comprenderlo è opportuno distinguere due momenti di questo percorso, la maturazione e l'affinamento. La maturazione è il periodo che il vino, non più mosto e prima di entrare in bottiglia, trascorre, a seconda dello stile del vignaiolo, in contenitori diversi, che possono essere di acciaio, legno, anfora, cemento. In maturazione, oltre a trovare un equilibrio tra i propri elementi dopo il grave stress della nascita, il vino acquisisce delle caratteristiche determinate dall'ambiente frequentato. Pensiamo, ad esempio, alle tracce di vaniglia dopo il riposo in barrique. Una volta imbottigliato, il vino inizia l'affinamento, che è una sorta di letargo attivo. A trovare giovamento sarà qui il corredo olfattivo del liquido, l'insieme dei suoi profumi, che diventeranno nel tempo sempre più complessi. La longevità, da un paio a decine di anni, comporta nei vini la modifica dei profumi primari, quelli del frutto originario, che si perderanno, la conservazione di quelli secondari, che sono i profumi generati nella fermentazione, e lo sviluppo dei preziosi aromi terziari, i sentori dell'invecchiamento. L'esito di questo percorso sarà un profumo ampio e profondo che rappresenta il traguardo a cui tutti i produttori ambiscono. Un vino longevo amerà finire il suo viaggio assieme a un cibo importante che nell'abbinamento finirà per onorarne la potenzialità. Marmellata o confettura, due facce distinte della stessa medaglia. Michele Urbano fa chiarezza in materia e ci regala la ricetta di una confettura di stagione, quella di zucca. Ottobre, l'aria fresca della mattina si mescola in fretta con gli ultimi accenni dell'estate. Tra pochi giorni la natura sarà un caleidoscopio di colori e ci avvolgerà fin tanto da inebriarci con i suoi gialli accesi, gli arancioni e le infinite sfumature di rosso. Sulla scia di queste riflessioni è nata la voglia di trasferire questi colori in un'esperienza culinaria. Va da sé che ottobre è sinonimo di zucca e che un tocco di dolcezza ci predispone ad affrontare con più serenità la stagione autunnale. Quindi confettura di zucca sia. Ma confettura o marmellata? La maggior parte delle persone utilizza indistintamente i due termini pensandoli sinonimi. Invece una direttiva europea del 1979 definisce che sono prodotti commercialmente distinti. La marmellata è la mescolanza di agrumi, zuccheri e acqua, dove la percentuale di agrumi non deve essere inferiore a 200 grammi per chilo di prodotto finito. La confettura è la mescolanza di frutta, zuccheri e acqua con un contenuto minimo di frutta del 35%. Parrebbe che a chiedere questa distinzione siano stati gli inglesi, nel cui vocabolario era ben presente la distinzione tra marmalade, conserva di agrumi, e jam, conserva di ogni altro frutto. Vi lascio maggiori informazioni sulla regolamentazione nella pagina Facebook. Vi anticipo solo che la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 21 aprile 2023, ha proposto alcune modifiche che prevedono l'aumento in percentuale di frutta sul totale finito del prodotto. Inoltre, il termine marmellata, secondo la direttiva, si potrà utilizzare anche per le confetture. A fronte di questi cambiamenti e salutando gli inglesi, ci rimane una certezza. Comunque la definiate, quando è spalmata sulla fetta biscottata, la fa cadere sempre dalla stessa parte. Concludo lasciandovi la ricetta della mia confettura di zucca. Pesate e tagliate a tocchetti 500 g di zucca Delica, dopo averla lavata e privata della buccia. Sbollentatela velocemente, fin tanto di ammorbidirla, poi scolatela molto bene. Unite 250 g di mela renetta, pulita e tagliata a cubetti, e 370 g di zucchero, il succo di un limone e il fiore di lavanda a sentimento. Portate dolcemente a bollore, spegnete e fate raffreddare, poi lasciate maturare al fresco. Cuocete e invasate a caldo, tappate e capovolgete velocemente per creare il sottovuoto. Potete sostituire la lavanda con la classica combinazione di zenzero e cannella, ma vi lascio questo punto da considerare. Il profumo dato dalla combinazione zucca-lavanda fu valutato come il più eccitante in assoluto dal genere maschile, che partecipò ad uno studio condotto dalla Smell and Taste Treatment and Research Foundation di Chicago. Con Alessandro Squizzato oggi parliamo di una produzione floricola tipica della nostra regione, il ciclamino friulano. Il ciclamino rappresenta una delle produzioni floricole tipiche della nostra regione, tanto che alcuni anni fa è nato il marchio Ciclamino Friulano, di cui si possono fregiare le piante di migliore qualità di produzione regionale. Viene coltivato da aziende autorizzate, secondo un rigido disciplinare, che stabilisce di ottenere un numero elevatissimo di foglie, boccioli e fiori. È frutto di una selezione di un centinaio di specie coltivate e valutate. Per essere marchiato ciclamino friulano, il disciplinare stabilisce il tipo di vaso, che deve essere assolutamente di coccio, il tipo di terriccio utilizzato, le caratteristiche delle piccole piantine da rinvasare, la concimazione, la gestione dei parassiti e delle malattie, le dimensioni e la compattezza della pianta al momento della vendita, la qualità della fioritura e l'etichettatura, che deve essere sempre presente. Ciò consente di ottenere un ciclamino con il massimo delle caratteristiche di bellezza, resistenza agli stress e durata di fioritura. I fiori possono avere diverse forme, classici uniformi o frangiati. Inoltre ci sono anche una moltitudine di colori, classici monocolore, con l'occhio, bicolori, fiammati, striati, marginati. Per avere piante sane e fioriture continue, posizionare il ciclamino friulano in un ambiente luminoso, ricordando che è comunque una pianta da esterno e quindi bisogna fornirgli molta aria e luce. Può stare fuori a temperature vicino allo zero, ma chiede di essere riparato dal gelo. Preferire la bagnatura nel sottovaso, possibilmente la mattina, così da dar tempo alla pianta di smaltire l'acqua in eccesso e non farla ristagnare oltre 15-20 minuti. La frequenza di irrigazione è di 2-3 volte a settimana circa, ma è sempre meglio verificare che il ciclamino abbia effettivamente bisogno d'acqua. Sarà sufficiente alzare il vaso e constatarne il peso. Togliere sempre i fiori appassiti con uno strappo deciso, senza lasciare residui nella pianta, poiché potrebbero marcire e quindi causare problemi. Concimare una volta alla settimana, con concime dedicati, per avere fioriture continue e prolungate. Con queste poche cure, il ciclamino friulano può arrivare fino a Pasqua portando contemporaneamente 50-60 fiori. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,70 e 20 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 21,70 e 22,20, l'orzo peso specifico 62,65 tra 17,70 e 18,20. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 12 euro il quintale e il frumento di 13,40 centesimi. Fiacche le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi stabili. L'insalata gentile viene quotata da 1,50 a 1,80 euro il chilo IVA esclusa, la lattuga Trocadero ai finocchi tra 1,80 e 2 euro, le zucchine tra 1,20 e 1,40, la scalorra riccia tra 3 e 3,50, le spinaci da 2,80 a 3 euro, i cavoli da 2,20, il radicchio rosso tondo tra 2,50 e 3 euro, quello di Treviso da 3 a 3,50, le patate tra 0,75 0,85. Nel settore della pesca l'attività è proficua per le condizioni meteo favorevoli e i prezzi si diversificano. Alla cooperativa pescatori San Vito di Milano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 16 a 32 euro al chilo IVA esclusa, le orate da 6 a 18, le sogliole da 8 a 27, le canocce da 5 a 11, le passere da 12 a 16, i palombi da 6 a 12, manzancolle da 14 a 24, le cappesate da 20 a 23, le anguille da 23 a 25 euro il chilo. Nel comparto caseario, la commissione camerale di Pordenone e Udine ha determinato il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo ancora tra 50 e 52 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Prezzi riflessivi nel comparto dei foraggi, con un lieve calo per l'abbondanza di prodotto, e l'erba medica viene quotata tra 17 e 18 euro il quintale, IVA esclusa, il fieno Mazzengo di pianura si paga tra 11 e 12 euro e la paglia di cereali pressata si quota fra 8 e 10 euro il quintale. E con il previsore dell'ARPA Gabriele Fasano diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalla presenza persistente dell'anticiclone, che sulla regione ha portato tempo stabile, ben soleggiato e molto caldo per il periodo. L'anticiclone dominerà ancora per qualche giorno, fino all'inizio della prossima settimana. La giornata di oggi quindi vedrà tempo stabile con cielo in gran parte sereno e temperature alte per questa stagione, con minime in pianura attorno ai 15 gradi e massime fino a 27-28 gradi. Lunedì sarà una giornata molto simile, con prevalenza di cielo sereno e temperature stazionarie rispetto a domenica. La ventilazione prevalente sarà di brezza. Martedì, nella prima parte della giornata, avremo ancora cielo sereno o poco nuvoloso e temperature ancora alte. Poi nel pomeriggio potrà esserci un aumento della nuvolosità. Da martedì sera è atteso infatti il primo mutamento del tempo dei prossimi giorni. Infatti un fronte atlantico potrà avvicinarsi alla regione e portare instabilità. Tra la tarda serata di martedì e la giornata di mercoledì, quindi, ci sarà nuvolosità variabile e saranno possibili delle piogge sparse e dei rovesci, e anche qualche temporale. Mercoledì le temperature massime potranno calare leggermente. Dopo mercoledì, al momento si prospetta la rimonta di nuovo piuttosto vigorosa dell'anticiclone, che porterebbe quindi una nuova fase piuttosto calda e asciutta. Tuttavia, stante anche la notevole distanza temporale, invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti dei prossimi giorni sul nostro sito. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi a un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Sal pluf a San Brunon, siet montani se un montanon. Ovvero, se piove il giorno di San Bruno, il 6 ottobre, ci saranno 7 temporali e un temporalone. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita